nostro momento giusto è questo qui, saperci innamorati da morire, scambiare l'anima mia con quella tua. E da morire e poi capire che il nostro momento giusto è questo qui, saperci innamorati da morire, sentire il cuore tu su quello mio, amore ed amare, da morire, da da morire.